vista. I mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. E delle strade abbiamo già parlato, buongiorno, ben ritrovati, anche domani in diretta questi spunti di vista e oggi andremo tra i medici che combattono l'Ebola in Sierra Leone insieme a Giovanni Putoto di Medici per l'Africa, QM, è uno dei dottori che è appena rientrato proprio dall'Africa occidentale, era stato nostro ospite il giorno dell'arrivo in Sierra Leone, ci eravamo collegati nell'ospedale di Pugeune e oggi ci racconterà quello che ha visto e quello di cui c'è bisogno. Sul sito di Radio 24 trovate anche l'intervista al dottor Setti Carraro, ancora in Sierra Leone, un paese dove l'aspettativa di vita è di 38 anni e andremo a parlare con un dottore perché ci sono missionari e medici per raccontarci che forse non è tanto e solo l'Ebola, per quanto se ne discute, la vera minaccia di quello alla vita in questi paesi, anche perché sembra quasi che l'opinione pubblica si accorga dell'epidemia di Ebola quando questa comincia a colpire anche i non africani. E come hanno reagito le popolazioni di Sierra Leone, Liberia, Guinea quando hanno saputo dell'esistenza di un siero? È vero, non è terminato il processo di sperimentazione che può dire di questo siero che sia sicuro al 100%, ma c'era quasi la sensazione che fosse somministrato agli europei, ma non a tutti, in paesi dove ancora si muore per malattie banalissime. Una pagina che affronteremo insieme ai nostri esperti. Tutto questo alle 8:30, alle 9 invece ci diremo multe. Come va la vostra guida a proposito? Multe in base al reddito. C'è anche un progetto in Italia, comunque già in Svizzera, in Danimarca, in Finlandia, così si sana quell'ingiustizia della distanza economica da cittadino a cittadino. Perché pensateci, per alcuni la multa è un salasso, per altri è poco più che un fastidio. Voi sareste d'accordo a introdurre questa novità della multa in base al reddito? Ne discuteremo alle 9 nel corso di Spunti di Vista. Il numero da comporre 800 24 00 24, potete prenotare le vostre telefonate. Se volete intervenire con SMS 349 238 6666. Parleremo, questa è un'invenzione tutta italiana, attenzione al burocratese, di multe con pagamento in misura ridotta, notizia del Sole 24 Ore di ieri. Attenzione, perché una persona di buon senso pensa a multe con pagamento in misura ridotta, è una terminologia che induce a credere che questa formula corrisponda a quel famoso sconto del 30%, invece non è così. È un modo di esprimersi della burocrazia in Italia. Spiegheremo tutto per filo e per segno dopo le 9 e naturalmente voi interverrete con noi con le vostre domande all'800 24 00 24. Prima però Visti da fuori. Ritorniamo a Visti da fuori, una versione diversa quella di oggi, una versione pre-Ferragosto. Noi in questa rubrica incontriamo chi ci racconta al mondo, cioè quello che pubblicano sui giornali, fanno i pezzi per radio, televisioni, blog degli altri sull'Italia. Hanno tutti nomi di difficile pronuncia, di solito abbiamo imparato a conoscerli, vengono dalla Colombia, dalla Danimarca, dal Messico, dal Giappone. Pensate che sono circa 370 le testate che ancora mantengono almeno un corrispondente ufficiale in Italia. Questo è un dato straordinario. Ieri è apparso appunto sull'Italia un articolo sul New York Times che parlava di questo paese e oggi è con noi l'autore Beppe Severgnini. Buongiorno Beppe Severgnini. Buongiorno, buongiorno. Viene da Crema, provincia di Cremona, per una volta un nome italiano e quindi ti sei ancora una volta nel corso della tua carriera sforzato di spiegare l'Italia agli stranieri. Ieri per il New York Times, come hai, non so, il titolo l'hai fatto tu innanzitutto o l'hanno estratto dal tuo pezzo? Beh, il titolo titolo, se non sbaglio, era Matteo Renzi's Red Tape Problem, cioè il problema del nastro rosso. Red tape in inglese vuol dire burocrazia, cioè il problema della burocrazia e delle lentezze che riguardano tanti temi che Radio 24 toccate un giorno sì e l'altro pure. Ho cercato di entrare, fare qualche esempio e farlo capire non solo gli americani, perché il New York Times è un giornale che si rivolge in generale a un pubblico interessato a questi temi un po' in tutti i paesi. Faccio notare che non è un pezzo isolato, perché io scrivo per loro. Il termine esatto è OPED contributor, che sai, mi fa molto ridere, perché molto io chiamo da Crema, ma se uno sa l'inglese lavora, può lavorare, perché uno deve dire mica solo a Manhattan, da Crema si può arrivare al mondo. Questo è bene che i ragazzi lo sappiano. Molto importante questo che hai detto, perché tra l'altro è un'altra delle caratteristiche del territorio italiano, cioè spesso le altre nazioni, quelle a cui guardiamo anche da questa rubrica, sono raccontate e producono anche giornalisti che raccontano dalle grandi città, mentre invece il territorio italiano è ricco non solo di campanili, ma proprio di non c'è quel gap che puoi trovare a New York tra chi vive in città e chi vive fuori dalla zona 212, o lo stesso dicasi di Londra o di Parigi. Questa è un'altra delle cose che tu hai raccontato dell'Italia, questa ricchezza del territorio. È la mia vita, insomma. Io sono un provinciale internazionale, mi piace questa definizione, mi piace molto. Io sono nato a Crema, vivo a Crema, però è vero che lavoro a Milano e che ho vissuto in America, in Inghilterra, in Russia, in altri posti. Insomma, ho fatto 30 anni di giornalismo, ho fatto tante cose, però è bello, mi piace tornare a Crema e non ho assolutamente complessi di inferiorità per il fatto di essere nato, di vivere a Crema. E agli inglesi o agli americani con cui lavoro gliene può fregare di meno, anzi piace, è una cosa, è un aspetto che piace. È abbastanza esotica, però diciamo che adesso mi trovate qua perché è 14 agosto, spesso e volentieri sono a Milano o in giro, però dicevo appunto, il New York Times scrive dall'anno scorso, poi ho fatto diversi anni all'Economist, quindi imparare a scrivere in inglese, ripeto, lo dico per le famiglie, per i ragazzi che ci ascoltano, si può fare. Io e i miei genitori sono di Crema, italianissimi, quindi non avevo una formazione familiare, ci vuole pazienza, è una cosa che si impara. C'è gente che ha imparato a andare sulla corda, sulle cascate del Niagara, figuriamoci se non si impara a scrivere in inglese. Quindi tu, che hai appunto scritto per BBC, BBC World Service e tante altre testate, ora ci stai spiegando questo tratto biografico, perché spesso ti rivolgi, e qui è una mentalità un po' giapponese più che cremasca, a quelli che verranno dopo, cioè è un po' un filo conduttore dei tuoi libri, la tua attenzione sempre ai giovani. Il libro dell'anno scorso, L'Italia di domani, tutte interviste a sedicenni, diciassettenni, ragazzi delle scuole superiori, cioè testimonianze straordinarie, e ancora una volta La vita è un viaggio, questo tuo ultimo libro da cui è stata tratta anche una pista teatrale, in cui parli sempre anche dei viaggi e dei momenti condivisi insieme a tuo figlio. Quanto è importante questo aspetto di lasciare il testimone? Di Ma coinvolgere. È fondamentale, perché io ho scritto 15 libri in 25 anni, hai descritto gli ultimi due, quindi Italiani di domani, che era del 2012, e La vita è un viaggio, che è uscito in aprile. Questi due libri hanno queste caratteristiche, sono penso molto, forse perché ho un figlio di 21 anni, ho tantissimi nipoti, giro molto, vedo tanti ragazzi, sono convinto che abbiamo un patrimonio di intelligenza e sensibilità nei ragazzi in Italia che non è secondo a nessuno, ma guarda che uno che arriva alla mia età, io ho 57 anni, se uno non pensa a chi viene dopo, non è egoista, è cretino, è un'altra cosa. Però questo è un paese in cui soprattutto la classe dirigente, la classe politica, sembra aver pensato molto poco a chi viene dopo. Infatti si è fatta cacciar via in pochissimo tempo da un ragazzo di 39 anni che aveva fatto un po' il sindaco di Firenze. Guardate che questo è fondamentale, cioè al di là delle qualità o della grinta o della determinazione di Matteo Renzi, ma lui si è trovato contro le ombre cinesi, perché tutti questi personaggi alla fine erano completamente sfiatati, sono dati, non c'erano, cioè l'opposizione, tutta la grande opposizione, la classe politica italiana, ma non c'erano, perché erano degli signori che erano attaccati alle loro carichette, appena uno ci ha provato, ha toccato la porta è andata giù. Tornando all'articolo pubblicato sul New York Times ieri, che appunto si intitola Il problema della burocrazia di Matteo Renzi, burocrazia intesa come red tape, tu racconti parti da episodi della vita quotidiana. Ma certo, che sono successi a te. Il lettore internazionale non capisce sto discorso generale, l'Italia, le lentezze, di cosa stiamo parlando? Guarda, io sono sicuro, cioè il New York Times è un bravissimo corrispondente in Italia, si chiama Jimmy Hartley, che tra l'altro è premio Pulitzer, quindi lui se ne occupa, lui fa il corrispondente in Italia, io faccio il columnist una volta al mese, non scrivo necessariamente solo l'Italia, sia chiaro, quindi i lavori sono molto diversi, però ho pensato che una mano, un italiano, scrivendo in quelle pagine, un op-ed per il New York Times, poteva darlo entrando in particolare, dicendo, signori, non è un mostro così generico, quando dico che l'Italia è rallentata e se siamo andati in recessione per questo, è per questo motivo, e ho scelto degli esempi miei che sono sicuro i nostri ascoltatori, appena ne diciamo due, li conoscono. Esatto, tu parti dall'affermazione generale, pensate che l'Italia occupa il 65esimo posto secondo la World Bank per la facilità di fare business, quindi la possibilità di svolgere affari, e questo avviene dietro la Bielorussia e appena davanti al Kirghizistan. Ma qui siamo sempre sulle generali. Esatto, poi entri nel particolare. Vuoi condividere con noi uno degli episodi che racconti? Sì. Un figlio di 21 anni vuol mettere in piedi una piccola impresina con un suo amico perché gli piace, ed è più che carte non gli chiedono, non lo sportello unico. Dov'è finito? Due ragazzi che vogliono mettere un'impresa ma sono molto giovani, chi li aiuta? Dov'è il posto pubblico che dice ragazzi fate così, è semplificato così? Non parlo di soldi, parlo proprio di aiuto pratico, non c'è. Io l'ho scritto anche sul Corriere, dovevo assumere una ci riuscirò perché dal 1 settembre la prendo, una bravissima collaboratrice che voglio assumere, quindi sarebbe un posto di lavoro in più, ma le battaglie, le complicazioni per darle 30.000 euro, questa ragazza ne avrebbe in tasca 16, e questo col nuovo contratto a progetto del nuovo contratto a tempo determinato che dovrebbe essere il fiore all'occhiello della riforma flessibilità Poletti. E dell'incentivazione. Ma di cosa stiamo parlando? Allora, oppure ne dico una che toccherà agli imprenditori che ci ascoltano. Faccio il nome. Ho un amico, si chiama Federico, sta a Lodi, importa e lavora cibo per cani, dice che lui è disperato perché molti cominciano a non pagare e lui deve, su questi soldi che non ha ancora preso, deve pagare le imposte sul reddito e l'IVA. Questo è cose notissime agli imprenditori italiani, purtroppo. Però se questa roba qua non si risolve, poi certo che un'impresa su 5 deve mandare via personale perché qualcuno dall'altra parte non ti paga, eccetera, eccetera. Sono cose concrete, il riforma del lavoro, è 8 mesi che ne parliamo. Io ho scritto, per esempio, io capisco l'importanza, il Senato, le lunghezze del bicameralismo perfetto, ma la verità ho scritto in quel pezzo, e tra l'altro nel libro La vita è un viaggio, su questi temi ero già entrato, dicevo, ma scusate, è come se il comandante, il pilota dell'aereo si mette a parlare della strategia futura di market nella linea aerea mentre l'aereo ha un motore in blocco, cioè è chiaro che i passeggeri urlano, e qui siamo a questo punto, cioè comincia a preoccuparti del motore in blocco e sbloccalo, poi parliamo del futuro. E tu hai dedicato tutto questo articolo a questi problemi burocratici che purtroppo per noi italiani sono la normalità, cioè vivendo solo in Italia si ritiene quasi con una rassegnata ormai attitudine alla vita, si ritiene che non ci sia niente da fare, ci mettiamo in fila per 18 giorni lavorativi per ottenere l'apertura di un'azienda come quella che dici tu di un ventenne, oppure ancora ci rassegniamo al fatto che qualcuno non ci pagherà. Tu, da quello che invece hai visto empiricamente, proprio al di là, come dici tu, dei massimi sistemi all'estero, cosa si potrebbe fare per semplificare questi processi così cruciali? Ce ne sono delle cose semplicissime, sì, per esempio il fisco potrebbe dire che finché tu non vieni pagato, come vale per i professionisti ma non vale per gli imprenditori, allora anche l'imprenditore se non viene pagato aspetta a pagare le tasse di essere pagato, perché altrimenti è il danno e la beffa. Per esempio, lo sportello unico vuol dire ma che si crea davvero nella Camera di Commercio, quello che voglio, allora un posto fisico dove un ragazzo può andare ed essere aiutato a mettere su un'impresa, in cui si riducono, si fanno dei contratti di apprendistato o di inizio lavoro, si fa per esempio quella cosa di cui abbiamo parlato tutti, che è il contratto a tutele crescente, basta 46 fattispecie per assumere una persona, basta, non si capisce più niente, allora io ti assumo, punto, e poi tutele crescenti, vanno avanti, quindi primo anno ti posso mandare via e ti do un mese di mensilità, al secondo anno 2 mesi di mensilità e così, così via. Si blocca tutto. Ma di queste robe ne stiamo parlando da anni e poi non si fanno. E allora di cosa ci lamentiamo? E dove le hai viste applicate? Perché questo è uno dei grandi timori, no? Quando si discute delle diverse tipologie contrattuali, dei timori anche dei sindacati che in Italia hanno una tradizione. Dove le hai viste? Hanno una tradizione, hanno una bellissima tradizione, però è diventata una pratica conservatrice, e lo dice uno che è tutt'altro che un conservatore, però non c'è dubbio che al momento il ruolo è di conservazione e il risultato è che siamo nei guai. Dove le ho viste? No, Beppe, quando tu le hai viste applicate ora, no? Perché ma per esempio sul lavoro nel nord Europa, sui pagamenti in America o in Inghilterra, in America sugli sfratti, un altro problema, io cito nel pezzo, io ho 2 inquilini che non mi pagano l'affitto, non c'è niente da fare, perché se li porto in tribunale stiamo in ballo per anni. Per 6 anni, sì. Ma quando tu hai visto modelli e paesi che applicano questo tipo di tutele, hai visto anche disinvoltura, perché questo è il grande timore, dell'imprenditore nel lasciare a casa senza giusta causa? No, io a dire la verità non tanto, io penso che molti ragazzi sarebbero contenti di correre questo rischio all'inizio, perché un imprenditore appena appena se prende un ragazzo o una ragazza brava e lo tiene, perché effettivamente avere un ragazzo bravo vuol dire che il tuo business andrà meglio e compagnia bella. Io sono convinto che la soluzione sia questa, è stata proposta anche dal partito di governo, quindi nel PD c'è Ichino, ma voi ne avete parlato Radio 24 un giorno sì e l'altro no, dai, quindi le cose si sanno. Comunque io parlo anche bene dell'Italia spesso all'estero, lo faccio con passione e anche queste cose le scrivo con affetto, perché la partenza di questo pezzo era, signori, parliamo di un paese sempre in movimento, che non ha la angst tedesca, non ha la malaise francese, non ha gloom all'inglese, noi siamo un paese tutto sommato vitale, siamo il paese che sa pensare con le mani, i nostri artigiani, siamo il paese che ha inventato la banca e il banking, allora di cosa stiamo parlando? Non abbiamo bisogno di lezioni di nessuno, abbiamo bisogno di avere coraggio e purtroppo adesso abbiamo più paura che coraggio. Grazie mille a Beppe Severgnini, tratto dal suo ultimo articolo apparso sul New York Times, questo nostro discorso di questa mattina, ma anche dal libro La vita è un viaggio di Rizzoli. E torneremo tra poco con un altro ospite, ma vogliamo sentire anche voi su questa tematica del affacciarsi fuori per capire dentro. Cioè, cosa avete imparato dell'Italia viaggiando o risiedendo all'estero? E parleremo tra poco anche di multe in base al reddito, sta infiammando la vostra immaginazione questa possibilità, sono tanti messaggi che arrivano, continuate a mandarceli dopo le 9, sarà l'oggetto della discussione dopo le 9 al 349-238-6666. Il numero di telefono invece è l'800-24-0024. Perché chi guarda l'Italia con un occhio diverso, magari perché è un corrispondente straniero che vive in Italia, e la racconta fuori, va a scegliere certi temi e punta sempre su quella facilità di risoluzione di certi problemi che invece qua sembrano insolubili, sembrano incatenare il paese per decenni quando non secoli. Quello della burocrazia è assolutamente uno che torna ricorrente nei racconti di tutti e poi ce ne sono tanti altri. Voi cosa avete imparato viaggiando, confrontandovi con i vostri amici stranieri? soggiornando per qualche settimana a casa loro, confrontandovi con loro. Cosa avete imparato dell'Italia? Attenzione! Intanto buongiorno a Caterina Soffici. Buongiorno a tutti, ciao Irene. Caterina, ciao, giornalista, vive tra l'Italia e Londra ed è l'autrice di un libro che proprio coglie nel segno, Italia Yes, Italia No, che cosa capisci del nostro paese, questo è il sottotitolo, quando vai a vivere a Londra per Feltrinelli, tu cosa hai capito? Guarda, io sono molto in sintonia con quanto diceva Beppe Severgnini, che non a caso è stato a lungo corrispondente a Londra. Diciamo, la sua carriera di internazionalista l'ha cominciata a Londra quando era giovane corrispondente con Montanelli, per cui credo che la mia visione sia abbastanza simile, come credo che sia simile alla visione di tutti quelli che vanno all'estero e capiscono, scoprono all'estero quella che io nel libro ho chiamato la banalità della normalità, perché a noi italiani sembra tutto complicato sempre, quando ti avvicini alla pubblica amministrazione sembra di avvicinarsi a un toro scatenato, quando ti avvicini anche a una cosa semplicissima come pagare una multa o come pagare il ticket dell'area C di Milano, io ho pagato, guarda, faccio un esempio concretissimo, entrare in centro a Londra con una macchina, c'è un sito dove vai, non c'è bisogno di registrarsi, non c'è bisogno di niente, metti la tua targa, paghi con la tua carta di credito, tempo di fare questa operazione 3 minuti di orologio. Io ho provato a fare la stessa cosa entrando a Milano, area C del comune di Milano. Non ho pagato il bigliettino, quello solito giorno, perché pensavo che fosse come tutti i paesi, appunto, vivendo a Londra, dico vabbè, poi vado sul sito e pago. Mi sono cominciata a infilare in una situazione che ho detto non è possibile, registrati, poi ti danno un numero, poi ti danno un PIN, vogliamo parlare dell'INPS, e io ho scoperto, ecco, qui in Italia l'INPS ti manda mezzo PIN a casa con la cassetta postale e mezzo PIN te lo prendi sul sito. Ora io, ecco, mi dico, allora, no, chi è che avrebbe interesse a entrare no, e capisco la violazione della privacy e vedere e sottrarmi la pensione, cioè, a parte che io una pensione non l'avrò mai, ma ma fatemi capire, no, perché è una follia. E quindi queste sono cose molto semplici. Poi io alla fine, disperata, che non capivo più come fare, perché veramente mi sono e non è che sono un ottantenne che non sa usare un computer, cioè io ho una competenza medio alta, direi, di anche tanti ottantenni, scusa Caterina, ma lo devo dire. Va bene, anche tanti ottantenni, diciamo, anche comunque io ho una competenza, credo nella media, o anche forse un po' superiore alla media, nell'uso di un computer. Ho chiamato questo numero verde dove dei ragazzi gentilissimi hanno detto: signora, dice, non è la prima che chiama, non sarà l'ultima, siamo bombardati di telefonate di persone che non sanno come risolvere questa cosa, è fatto malissimo, lo sappiamo per primi, sì, noi, sì. Però dicono così, ma non è che qualcuno capisce questa cosa e si mette mano e si cambia, è fatto malissimo, lo riconoscono loro, il Comune di Milano lo sa, tutti lo sanno, e comunque non si riesce a cambiare, e questo non ci vorrebbe niente, questo proprio è l'esempio tipico di una cosa che semplificherebbe la vita al cittadino, non ci vuole niente, è una cosa che non funziona. Qualcuno ha detto che le cose non funzionano naturalmente in molti aspetti anche all'estero, qual è la differenza sostanziale che non troverai mai un addetto al settore dove avviene l'inadempienza piuttosto che il guasto che ti dica sì, cosa vuole che ci farci, va così. Ecco, quello è quello l'aspetto diverso, perché c'è sempre un responsabile che è informato, vero, della cosa, si avvierà. E poi, guarda, e poi c'è un concetto completamente diverso all'estero che si chiama accountability, che vuol dire la responsabilità. Cioè tu vai in qualunque settore, che sia pubblico o privato, c'è sempre la possibilità di risalire a un responsabile. Tu parli con un signore, questo signore dice: no, ma guarda, io arrivo, la mia competenza arriva fino a lì, oltre questa devi parlare con quest'altro, ma ti dà il nome, il numero di identificativo e il telefono di una persona con cui tu puoi parlare, e al limite poi te chiami quell'altro ti dice: sì, posso risolvere questo, ma non arrivo fino a questo. C'è sempre qualcuno sopra che risponde, e questo vuol dire che crea una catena dove ognuno è responsabile del lavoro che fa e di quello, anche se fosse un solo piccolo spicchietto, lui quello, di quello è responsabile. In Italia nessuno è mai responsabile di niente. Caterina Soffici, una domanda che ti rivolgono spesso: perché andare a fare il cameriere a Londra quando puoi fare il cameriere in Italia? Questo questa sembra una domanda banale, una domanda cruciale in questo momento, perché a Londra stanno arrivando frotte di ragazzi, frotte di giovani che scappano un po' da questo paese, persone che anche vanno a fare il cameriere e diciamo perché farlo lì? Perché qua chi fa il cameriere fa il cameriere, punto, non ha una prospettiva neanche da cameriere. Incredibilmente, molto spesso, ora ovviamente non si può generalizzare, ma molto spesso chi va a fare il cameriere a Londra, nel giro, siccome poi gli italiani sono gente che lavora, gente smart, cioè intelligente, gente che sa prendersi anche le responsabilità e che sa ha un lato imprenditoriale, nel giro di un anno diventano manager del negozio dove stanno lavorando, anche se lavorano da Starbucks o da Caffè Nero, che sono delle grandi catene di ristorazione, fanno carriera. Tu riesci a pensare a costruire un futuro, cosa che qui in Italia ormai in questo momento non è possibile. Le responsabilità sono varie in Italia, però questo è la grande differenza, senza contare poi l'altra cosa fondamentale, che chi va a fare cameriere a Londra in questo momento impara anche una lingua, è a contatto con un mondo dinamico, è a contatto con il mondo, e quindi sceglie di andare lì, che dice: se devo fare il cameriere e guadagnare comunque poco, almeno vado in una situazione dove mi si aprono delle porte. Però tu ti sei ritrovata a proposito di porte, seduta di fronte alla porta della metropolitana, con lo racconti nel libro, con questi inglesi silenziosi, immersi nei loro pensieri, che leggevano, e a chiederti: ma cosa ci faccio qui? Perché siamo venuti via? Perché poi tu ti sei spostata, tra l'altro rinunciando, questo diciamolo così come nota biografica, a un'assunzione più che garantita e tutelata, per il gusto del cambiamento, del provare, dell'avere una prospettiva in movimento, con marito e figli. E ti sei trovata lì seduta a chiederti perché? Perché l'abbiamo fatto? Perché? Qual è stata la tua risposta? Allora, l'assunzione garantita, poi ti dico sono storie personali, quindi poi non entro nel dettaglio. Io non ce l'avevo più nel momento in cui ho deciso questa cosa, quindi diciamo che però anche questo fa parte, diciamo, di un percorso di molte persone che se ne vanno all'estero, italiani in questo momento, anche di persone che si muovono con famiglia e con marito e figli, perché non arrivano solo camerieri o gente che non ha ancora un mestiere in mano, che va a provare la fortuna a Londra, all'estero, a Berlino, dove vanno i giovani che vanno poi da tutte le parti. Noi, e ti parlo come famiglia, abbiamo deciso di fare un'esperienza diversa, anche perché ognuno, diciamo, raggiunge un suo limite di sopportazione, no? In cui dici: è troppo la complicazione, è troppo dover combattere con un sistema che non funziona, è troppo combattere con delle corporazioni che non ti aiutano, cioè alla fine abbiamo detto: proviamo a farlo da un'altra parte, e soprattutto è anche un'opportunità per dare ai nostri figli la possibilità di avere un'esperienza internazionale, un'esperienza diversa. Ma tu hai sintetizzato mirabilmente in una frase che poi ripetono molti di quelli che hanno provato e l'esperienza italiana e quella straniera. In Italia si vive meglio ma si sta peggio, come a dire che fuori si vive peggio ma si sta meglio. Perché? Come lo spieghi? Lo spiego molto semplicemente: si vive meglio è perché, guarda, io sono in Italia in questi giorni, appunto è Ferragosto, quindi siamo qua in vacanza, cioè la qualità di vita che c'è in Italia è una qualità di vita altissima, si mangia benissimo, si sta benissimo, c'è un clima fantastico, questo paese è una bellezza, cioè sto dicendo delle banalità, ma quando vieni dall'estero, soprattutto quando vieni da una città come Londra, che certo non siamo in un paese disagiato, però piove, fa freddo, insomma, c'è una situazione climatica completamente diversa. Quando te parli con un inglese gli dici: io sono a Londra, ti dice: ma come mai hai lasciato l'Italia? Perché non lo capiscono, non riescono a capirlo perché vieni via, perché per loro l'Italia è il paese della bella vita, del ben godi, del vivere bene, quindi si vive meglio. Si sta peggio perché è tutto quello che ci siamo detti finora, è il fatto di combattere con una realtà che sembra ostile al cittadino, al lavoro, all'imprenditoria, a chi ha voglia di fare, alla creatività, a chi ha voglia di mettersi in discussione, non è un paese per chi ha voglia di mettersi in discussione. È un paese che vive sempre di più in una dicotomia tra chi è privilegiato e assolutamente garantito e chi da un'altra parte non ha nessun tipo di garanzia, nessun tipo di tutela. Questo gap si apre sempre di più. Chi è nella parte, e non è detto che sia, è molto generazionale, ma non è detto che sia solo generazionale, sempre più persone, anche guarda, trentenni, trentacinquenni, anche quarantenni, che non sono più garantiti e quindi non hanno niente da perdere, prendono e arrivano anche, ti dico, East London, ormai tutta la zona East di London, di Londra, è popolata sempre di più da giovani ragazzi che sono o ingegneri elettronici, persone che sanno lavorare col web, graphic designer, designer che fanno designer proprio, cioè persone che disegnano per la moda, che disegnano per le aziende, per il web. E anche Renzi nella sua visita a Londra è stato accolto con un benvenuto nella città italiana. È chiaro, certo, che è un magnete che attrae, e non solo dall'Italia. La sensazione di vivere in un paese infame caratterizza un po' tutti i giovani, un po' curiosi intellettualmente, di tutto il mondo. È anche grave il contrario, è anche grave l'eccesso di soddisfazione che ti porta a pensare di vivere nel paese ideale, perché segno a volte di grande sonnolenza. Quindi, certo, ma infatti, ma poi allora, diciamo, in questo io vedo anche un lato molto positivo, che comunque siamo italiani, stiamo diventando cittadini del mondo, per cui la gente si muove, cominciamo a sapere un po' meglio le lingue. Io quando leggo queste polemiche assurde del Politecnico di Milano, in cui c'è stato il ricorso perché non si devono fare il ricorso dei professori contro l'insegnamento in inglese, io lo trovo una polemica, ma non retrograda, di più, perché tu non stai parlando di una laurea della laurea triennale in cui dice vabbè apriamo un po' a tutti così, te stai parlando di una laurea specialistica dove ormai anche i libri di testo sono in inglese, la gente ha bisogno di parlare in inglese. Quello che diceva Beppe prima, che diceva Severgnini prima, l'inglese si impara, ha ragione, senza l'inglese non vai da nessuna parte nel mondo, è giusto non perdere l'italiano, noi abbiamo una cultura, abbiamo un patrimonio da difendere, ma sono due cose che non vanno mischiate, un conto è la competenza tecnica e più che l'inglese e basta, andrebbero salvaguardate anche un po' tutte le lingue che sono il patrimonio culturale anche che gli immigrati ci portano. Adesso si comincia a insegnare il cinese, si fa un po' di attenzione all'arabo, ma tutte le lingue costituiscono una grande ricchezza. Caterina Soffici, grazie per questa tua testimonianza. Vi abbiamo chiesto cosa avete imparato dell'Italia vivendo all'estero. Italia yes, Italia no. Il libro della nostra ospite di oggi analizza proprio questo. Noi tra poco cambieremo argomento e andremo altrove per parlare con chi viene coinvolto in prima linea con l'Ebola, le malattie definite tropicali, definite pericolo soprattutto per gli occidentali. Questa è una delle accuse che gira in questi giorni. Ci accorgiamo di un'epidemia solo quando comincia a colpire i non africani. Ma al di là delle polemiche, andremo a incontrare chi è stato in prima linea in Sierra Leone. Stiamo raccogliendo ancora i vostri messaggi sulla possibilità di introdurre le multe in base al reddito, perché ci chiede qualcuno si passa col rosso quello è una cosa meno grave o che mette meno a repentaglio la vita altrui, se a farlo è qualcuno ricco? Assolutamente no, non è questa la base naturalmente del principio, ma ce lo racconteranno direttamente per esempio gli svizzeri che l'hanno già applicato. Hanno pensato che funzionasse da disincentivo dare delle multe piuttosto sostanziose a chi ha un reddito molto alto, e ci sono gli esempi del calciatore che guida ubriaco contromano per esempio in Svezia, multato con un'ammenda di 104.000 euro perché, calcolando il reddito di questa persona che è di 14 milioni di euro l'anno e applicando delle costanti, degli algoritmi che sono stati naturalmente studiati e vengono ogni volta calcolati in base al al soggetto, in base all'individuo che viene fermato, si è stabilito che forse una lezione così avrebbe scoraggiato il signore in questione dal ripetere un atteggiamento appunto ad altissima pericolosità sociale come quello in cui era stato colto. Questo è il principio alla base della multa in base al reddito. Ne discuteremo dalle 9 in poi. Ora però cambiamo pagina. Abbiamo medici italiani impegnati in Africa occidentale, hanno detto sì, abbiamo paura, è vero, forse, dell'Ebola, però ricordiamoci che la situazione è drammatica, si sta ancora aggravando e ricordiamoci che in questi paesi, Sierra Leone, Liberia, Guinea, in cui è concentrato in questo momento il numero di casi registrati, il maggior numero anche di decessi, si muore normalmente per cause banalissime e sulle quali forse abbiamo responsabilità anche noi occidentali. Dottor Giovanni Puttoto, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Lei era stato con noi quando era appena atterrato in Sierra Leone e a Freetown ed è bello sentirla al suo ritorno. Cosa ha visto? Ho visto un paese in grande difficoltà, casi di Ebola che stanno aumentando in tutte le aree. Nel distretto dove operiamo noi, di Pujaun, con 300.000 abitanti, abbiamo avuto 7 morti accertate di Ebola, quindi la tensione è molto elevata. Ricordo che il dottor Giovanni Puttoto è di Medici con l'Africa, QAM. Quanti operatori della vostra associazione sono in Sierra Leone in questo momento all'ospedale di Pujaun? All'ospedale di Pujaun si trovano al momento un chirurgo, un'ostetrica, una infermiera di salute pubblica, un pediatra e una persona addetta all'amministrazione e alla logistica. 5. E qual la vostra maggiore preoccupazione quando si parla di epidemie di questo genere naturalmente è la dimensione di contenimento, cioè cosa dovete fare quando c'è un caso sospetto? Noi ci stiamo muovendo in due direzioni e stiamo mettendo in essere una serie di interventi che vanno sul versante sanitario e sul versante comunitario. Per quanto riguarda il versante sanitario, abbiamo istituito all'interno dell'ospedale un sistema di screening, di verifica e di controllo dei casi sospetti. Quelli che vengono considerati tali sono analizzati, osservati da un team di esperti, diciamo così, della malattia dell'Ebola. E se del caso, vengono isolati in un tendone particolare. In questa isola, diciamo, che è protetta dall'esterno, è una forma di protezione non solo della popolazione ma anche degli stessi potenziali ammalati. Purtroppo in tutto la Sierra Leone al momento ci sono soltanto 5 ospedali che hanno queste unità di isolamento, tra cui anche l'ospedale dove operiamo noi di Pujaun. A volte sì. Anche il vostro intervento in qualche modo finisce male, cioè stenta a essere capito all'inizio dalla popolazione. E questo è l'altro versante, il versante comunitario, e qui il mandato e la parola d'ordine è una sola: spiegare. Le popolazioni africane, molte popolazioni africane sono sopravvissute a guerre e a epidemie grazie alla conoscenza e anche all'esperienza collettiva. Se la comunità è informata ed è consapevole di che cosa è l'Ebola, di come si trasmette, di come si previene e del ruolo attivo che può giocare la comunità, allora assume dei provvedimenti e delle azioni che sono fondamentali per il controllo, e le ricordo. La prima: accetta con disagio, ma accetta che ci siano delle misure coercitive come i cordoni sanitari e la quarantena. Secondo: interviene attivamente nella ricerca dei contatti, cioè delle persone che hanno avuto relazioni e contatti con i malati, e li segnala alle autorità sanitarie. Terzo: accetta anche che questi malati siano ricoverati e trattati in condizioni particolari rispetto, diciamo, anche alle aspettative che loro hanno. E quarto, rivede in profondità anche i propri riti funerali, cioè anche le dimensioni culturali e antropologiche richiedono dei cambiamenti. E beh, voi siete in qualche modo adesso visti a volte come persone che arrivano, abbiamo visto anche noi dei video scafandri, avete bianchi, gialli, mascherine trasparenti, in mezzo a una famiglia che magari sta piangendo, stremata dalla sofferenza per aver perso una persona, e a volte è finita anche a insulti, insomma, a botte. Ma lei dice la radice di tutto per eliminare questo tipo di problemi è l'informazione, e quindi voi state organizzando sul posto anche incontri con le comunità locali. Esatto, ci sono degli incontri sistematici che vengono tenuti soprattutto nelle aree hotspot, cioè nei luoghi del territorio dove si sono verificati i casi di Ebola. Si incontra la popolazione, si utilizza molto il personale locale perché sono anche problemi di lingua, e si veicolano messaggi che vanno a puntare sulla conoscenza e sulla comprensione del fenomeno. Di qui poi parte la reazione della popolazione. E la cooperazione. Non è più atterrita, non c'è più la paura. C'è invece una popolazione che è consapevole e collaborante. Comunque avete fatto della fiducia reciproca. Avete fatto e state facendo in questi giorni delle operazioni straordinarie, fate qualcosa di eccezionale per i gruppi più vulnerabili, ma vorrei anche ricordare perché eravate in Sierra Leone già come medici con l'Africa, e cosa facevate, come avete contribuito già prima a ridurre il tasso di mortalità dei bambini, il tasso di mortalità delle donne che partoriscono. Perché voi non siete un'associazione per gestire l'emergenza, vi siete trovati lì in mezzo all'emergenza, e questo è un aspetto che forse più si ignora rispetto alla Sierra Leone e a questi paesi dell'Africa occidentale. Tra poco lo approfondiremo anche insieme al professor Aldo Morrone, primario del Regina Elena, a capo del Dipartimento di Medicina dell'Immigrazione e Malattie Tropicali qui in Italia. Prima però gli aggiornamenti con il giornale radio. Ritorniamo insieme dopo il GR, e insieme a noi c'è il dottor Giovanni Puttoto. Lui è di Medici con l'Africa, ci ha raccontato ora in questa conversazione di aver avuto 7 morti nell'ospedale di Punjeun per quel che riguarda l'Ebola, quindi una situazione tesa. È una malattia che in quell'area non c'era mai stata, però un'epidemia che sta durando a lungo e sta colpendo soprattutto nelle grandi città. È tornato da 11 giorni di ricognizione dentro e fuori gli ospedali. Dottore, lei ci ha raccontato quello che si sta facendo e come si incentiva la cooperazione naturalmente delle popolazioni locali, ma perché eravate già in Sierra Leone e quali sono i timori ora per un sistema sanitario che avevate contribuito a potenziare e a rendere meno fragile, visto che le morti per situazioni banali sono ancora altissime, un paese dove l'aspettativa di vita è di 38 anni. Questo è un punto cruciale. L'epidemia di Ebola sta colpendo la popolazione e il sistema sanitario, ma oltre che gli effetti diretti sui pazienti, sulle popolazioni e gli operatori sanitari, ha anche dei gravissimi effetti indiretti. Le vaccinazioni sono sospese perché le mamme non si fidano più di portare i bambini, le malarie cerebrali che sono tipiche di queste stagioni non vengono trattate, neppure patologie come le polmoniti o le enteriti, le diarree. Le donne che avevano cominciato a partorire assistite nelle maternità periferiche, 75 i centri sanitari, hanno paura e sono ritornate a partorire in casa con tutti i problemi che ci sono quando insorgono le complicanze ostetriche. Ecco, c'è questo aspetto degli effetti indiretti dell'epidemia dell'Ebola che ci preoccupa moltissimo. Noi eravamo lì a partire dal 2012 per questo programma fondamentale, prima le mamme e i bambini, proprio per dare un contributo al sistema sanitario locale per migliorare i servizi materno e infantili, riducendo la mortalità materna, neonatale, infantile, che è tra le più alte al mondo. La Sierra Leone ha una ostetrica ogni 20.000 parti, dunque situazioni inimmaginabili. E quindi quello che vi preoccupa oggi più che l'Ebola in sé è che tutto lo sforzo per rendere più attrezzato il sistema sanitario del paese rischia ora di essere vanificato. Esatto, i risultati che erano stati raggiunti in questi due anni, l'80% della copertura delle vaccinazioni, il 70% dei parti attesi assistiti in ambiente sanitario, sono crollati, e questo è un motivo per noi di allarme, anche la ragione sostanziale per cui abbiamo deciso di rimanere. Si rimane per dare una risposta all'epidemia da un lato, ma dall'altro per mantenere il più possibile e poi recuperare e ripristinare il più velocemente possibile le attività per riportare il sistema sanitario almeno i risultati che aveva conseguito fino adesso. E questa è la ragione di fondo di una presenza che risponde da un lato a situazioni di emergenza e dall'altro però anche assume in sé principi e pratiche finalizzate allo sviluppo delle popolazioni e dei sistemi sanitari. È l'agenda del millennio e io mi auguro che anche nella nuova agenda del post millennio del 2015 il tema della salute globale sia mantenuto e l'Italia e l'Occidente facciano la loro parte. Sono le sfide nuove dei cittadini del mondo di oggi. Grazie a dottor Giovanni Putoto, responsabile della programmazione Medici con l'Africa, QAM. Dottor Morrone, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. E lei che è a capo del Dipartimento di Medicina dell'Immigrazione e Malattie Tropicali, primario del Regina Elena Istituto San Gallicano, e innanzitutto devo farle la domanda di rito: non c'è alcun rischio di Ebola in Italia in questo momento? Nessun rischio di Ebola né di malattie da virus emorragici come i virus Ebola e gli altri che sono praticamente in Africa, non c'è nessun rischio che queste malattie possano diffondersi in Italia e in Europa. E quest'altro aspetto invece che ci raccontava il dottor Giovanni Putoto, tornato adesso da Freetown e dalla Sierra Leone, complica la situazione e preoccupa molto di più voi che avete a che fare normalmente con la medicina dell'immigrazione. Questi sistemi sanitari fragilissimi, che basta un nulla per scuotere e buttare a terra, che sembra non riescano quasi a progredire mai. Cosa si potrebbe fare come Organizzazione Mondiale della Sanità, come attori coinvolti in questo processo? È la sfida di questo millennio, ci ricordava il suo collega. Ma intanto direi che non sono una complicanza, sono il terreno su cui si costruisce una totale assenza di servizi sanitari. Ci si dovrebbe chiedere perché Ebola si sta diffondendo in Africa occidentale, in particolare in tre paesi, Liberia, Sierra Leone e la Guinea, dove ci sono state guerre civili con centinaia di migliaia di persone assassinate, con bambini soldati, bambini reclutati per scopi sessuali, nella totale indifferenza del mondo occidentale. Allora è chiaro che la diffusione di un virus come Ebola in quell'area è la cosa purtroppo più semplice e più banale da osservare. Se vogliamo davvero contrastare la diffusione di Ebola dall'Africa in altri paesi, dobbiamo investire sul ripianare servizi sanitari, strutture sanitarie, scolastici e sociali che sono stati distrutti. Abbiamo bisogno fondamentalmente in quell'area di cambiare l'ambiente, quindi abbiamo bisogno di aria pulita, di cibo, di igiene, di ricerca anche, di farmaci vaccini, ma che poi possono essere distribuiti gratuitamente. E lei osserva questi fenomeni e addirittura ha tenuto dei corsi di informazione a sua volta. Devo dire che questo è uno dei nostri compiti, farlo sia in Italia sia nei paesi come l'Africa, ma anche nel Medio Oriente, dove adesso c'è una situazione drammatica, perché dovunque c'è lo scoppio di una guerra saltano fragili sistemi sanitari e bambini che ricevono vaccinazioni contro la poliomielite, come sta accadendo in Siria e in Libano, ovviamente manifestano la poliomielite. Allora è inutile fingere di scandalizzarci per il ritorno di queste malattie quando nulla si fa per contrastare la loro diffusione, la nascita di malattie che noi ormai siamo riusciti ad abbattere, a contrastare nei paesi ricchi occidentali, ma poi dimentichiamo che ci sono aree del mondo, come dicevate prima, poco fa, dove l'aspettativa di vita media alla nascita non supera i 40 anni, che vuol dire che mentre da noi una donna in media può vivere fino a 85 anni e oltre, una donna arriva a 42 anni in queste aree del mondo, è chiaro che così non possiamo andare avanti. La salute è un bene globale di tutti i cittadini, è bene che l'Italia, l'Europa, anche la stessa OMS che ha la sua sede in Svizzera, sarebbe opportuno che mettesse una sede importante anche in Africa, nelle aree di guerra, si rendesse conto che se non c'è l'investimento in termini proprio strutturali, finanziari e professionali in queste aree del mondo, vivremo sempre di emergenza e in emergenza. Cioè, da noi in Occidente le infezioni non sono più la principale causa di morte, perché ora ci sono le malattie cardiovascolari, i tumori, proprio per l'igiene diffuso, per delle prassi, per farmaci banali che sono a disposizione di tutti, dagli antibiotici agli antivirali. Sembra invece che in Africa si possa ancora morire per malattie banalissime che qua genererebbero un 3 giorni di febbre. Com'è possibile? La prima causa di morte nei bambini sotto i 5 anni in Africa è la diarrea, sia batterica che virale, che uccide circa 2 milioni di bambini ogni anno nel mondo e che potrebbe essere perfettamente controllata e contrastata semplicemente con sali reidratanti, quindi quello che noi diciamo spesso che sarebbe sufficiente, un po' di acqua potabile, un po' di zucchero, un po' di sale. Eppure noi riusciamo a fare più vittime nei bambini con la diarrea che con la tubercolosi, con l'AIDS e con la malaria messi insieme. È evidente che da parte nostra ci deve essere un impegno più ampio e che il nostro paese farebbe bene a sprovincializzarsi, a rendersi conto che se vuole investire in salute dei nostri cittadini deve investire prima nella salute dei cittadini che vengono da paesi poveri. Grazie mille al professor Aldo Morrone, ed è stato un risveglio questo a margine di quanto si racconta sull'Ebola, su quelle che sono le possibilità. Era nell'agenda delle Nazioni Unite non solo eliminare la povertà, ma aumentare notevolmente prima del 2000 il tasso di sopravvivenza. Come avete sentito, grandi differenze in Sierra Leone, basti pensare. Aspettativa di vita ancora 38 anni, e questo anche prima dell'Ebola. Veramente non si può fare qualcosa di più? Cambiamo pagina ora, 9:17, ancora buongiorno da Irene Zerbini, questa è Spunti di Vista e ci concentreremo su di voi che siete alla guida. E che qualche volta qualche multa la prendete. Stiamo discutendo infatti oggi non solo di multe in base al reddito, una possibilità che infiamma gli animi, sono molti coloro che vogliono dire la propria, ma anche di burocrazia. Con me Maurizio Caprino, che saluto e ringrazio. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a tutti. Grande esperto del codice della strada del Sole 24 Ore, e proprio da lì ci informa ogni volta non solo delle stranezze ma anche di quelle trappole burocratiche in cui basta poco per cadere. L'ultima riguarda il pagamento in misura ridotta. Maurizio, di che si tratta? Ma il pagamento in misura ridotta è una cosa che noi abbiamo da 30 anni ma non lo sappiamo. Il pagamento in misura ridotta equivale semplicemente a quello che noi di solito paghiamo quando riconosciamo di aver torto e ci mettiamo in regola entro 60 giorni. Non sappiamo di usufruire di un pagamento in misura ridotta, ma per la nostra burocrazia tant'è. Che cosa succede? È tornato di attualità perché l'anno scorso, un anno fa esattamente, è entrato in vigore il famoso sconto del 30% sulle multe per chi le paga entro 5 giorni e qualcuno ci casca, cioè legge sul verbale pagamento in misura ridotta e pensa, toh, questo sarà lo sconto, e invece questo è soltanto la base su cui calcolare il 30%, quindi gli equivoci sono all'ordine del giorno ed è bene sottolinearlo, perché purtroppo l'ottusità, la scarsa comunicativa della nostra burocrazia fanno cadere in trappola anche persone normalissime, non necessariamente ignoranti. E riassumiamo un attimo il procedimento, perché è accaduto a tanti anche dei nostri ascoltatori. Quello che genera l'equivoco è l'entrata in regime dello sconto del 30%, cioè è stato deciso un anno fa chi paga una multa, non quelle infrazioni gravissime, ma quelle che non comportino né la sospensione della patente né la confisca del veicolo, e la paga entro 5 giorni, può calcolare sul totale il 30%, sottrarlo e pagarla scontata. E sta funzionando, tra l'altro, è un incentivo al pagamento veloce. Dipende questo? Da città a città. Da qualche parte forse si sono anche raccolti dei risultati, sono dati che avremo in seguito, ma c'è una dicitura precedente all'entrata in regime di questo sconto, che è quella che troviamo normalmente su un verbale. Esatto, cioè nel nostro diritto amministrativo fondamentalmente ritiene che la sanzione sia esattamente il doppio di quella che noi paghiamo normalmente, quindi per quello che per noi è straordinario per il diritto è invece l'ordinario, e invece quello che per noi è ordinario è la cosiddetta misura ridotta, che è un privilegio a cui possiamo accedere se paghiamo entro 60 giorni. Cioè pagando quella cifra lì che si vede scritta, non scontata. Non so, è difficile anche spiegarlo sto concetto. Non c'è lo sconto, insomma. Il pagamento in misura ridotta non coincide con quello scontato. Noi oggi affronteremo tematiche legate alle multe. Questo è un aspetto, se vogliamo, piccolo ma non marginale, di quanta confusione spesso generi la burocrazia in questo ambito. E ci siamo chiesti, ma applicare delle leggi simili a quelle della Svizzera, della Finlandia, della Danimarca, cioè di multe che sono tarate proprio sulla capacità contributiva di ogni singolo individuo, funzionerebbe in Italia? 800 24 00 24, il numero di telefono per esprimere la vostra opinione. Pierpaolo, buongiorno. Buongiorno, salve, siamo da Bologna. Sì, buongiorno. Buongiorno, niente, allora due cose, una velocissima per quanto riguarda la burocrazia e il pagamento del 30% in meno. Io proprio ieri l'altro mi è arrivata a casa una multa da 25 euro e 30% in meno fa 17,50, peccato che per burocrazia ci sono 15 euro di spese, quindi alla fine la spesa mi costa più che la multa praticamente, quindi questa è una cosa che riguarda sicuramente un costo della burocrazia inammissibile in una multa che praticamente costa come la burocrazia. Però a parte questo, io volevo più che altro intervenire nel discorso della multa in base al reddito. E noi dobbiamo sempre considerare che siamo in Italia, siamo italiani, lo sono anch'io, e quindi anch'io ho fatto subito il ragionamento che farebbe qualsiasi italiano. Allora, se io ho un basso reddito, o anche zero, posso tranquillamente, o quasi, trasgredire le leggi, perché tanto la multa che mi arriva è ridicola. Grazie Pierpaolo. Naturalmente questa è un'osservazione che ci stanno facendo in molti. Le multe in base al reddito, ci dice Mario Dioschio, premiano ancora di più gli evasori. Allora facciamole, suggerisce lui, in base all'auto che stai guidando. Questo è una proposta che sottoporremo subito a Maurizio Caprino, perché naturalmente non è la prima volta che se ne parla. Prima però vogliamo sentire ancora voi. 800 24 00 24, piace l'idea, ma si teme che in Italia sia difficilmente applicabile proprio per la propensione all'evasione fiscale e alla dichiarazione fiscale falsa o ridotta al minimo. Marco, buongiorno, pronto? Buongiorno. Sì. Io chiamo dalla provincia di Cuneo, da Bra. A me è successo di avere una multa dal comune di, non so se posso citare, se è rilevante, comunque per di 80 euro. No, non può più citarlo, ormai l'ha fatto. Ok, fatto. Scherzo, ma, naturalmente. No, mi ha fatto arrabbiare perché io l'ho pagata entro i 5 giorni, quindi dopo 2 o 3 giorni ho pagato, la multa era di 80 euro, mi sono fatto lo sconto. Quindi del 30% ho pagato 56 euro con un bollettino postale regolarmente registrato, se non altro che non era specificato, perché sulla multa non c'è, non ho messo le spese postali, vale a dire 4, 6, 5, 10, non lo so quanto devono essere, ma non sono specificate in un verbale, c'è scritto 80 euro e le ho pagate, mi è arrivato da pagare, oltre alla multa di 56 euro già pagata, 120 euro in più. Questo io quantomeno lo trovo assurdo. Sì. C'è Maurizio che scuote la testa. Dunque, possiamo segnalare all'ascoltatore una recente pronuncia della Cassazione che ha detto che quando il pagamento insufficiente è dovuto alle sole spese postali o comunque accessorie, mentre la sanzione in sé era stata pagata per intero, non è possibile ricaricare il costo della sanzione stessa come se non fosse stata pagata. Quindi il comune può solo procedere al recupero delle spese, che non le spese postali, in questo caso, che non sono state pagate. Quindi faccia ricorso immediatamente. Grazie a Marco che ci ha segnalato un'altra di quelle situazioni accadute a lui, ma che hanno colpito anche altri ascoltatori. Ce lo stanno raccontando al 349-238-6666. Questo è il numero per gli SMS. Per le telefonate invece 800-24-0024. Hai sentito anche lo stimolo dell'ascoltatore precedente che parlava di multa sì ridotta, ma poi maggiore. Sì, allora questo succede perché non è tanto la burocrazia quanto il privato che mangia sulla burocrazia. Mi spiego meglio. Molti comuni hanno appaltato i servizi, diciamo la gestione dei verbali a aziende private che approfittano in qualche caso del fatto che per legge non esiste un tetto alle spese, diciamo, di gestione dei verbali, e quindi ricaricano in maniera, chiamiamola, generosa. Tant'è che nella riforma del codice della strada, che sembrerebbe alle viste, c'è un disegno di legge delega in discussione alla Camera, poi dovrà passare al Senato, di mettere le mani su questa vicenda. Al momento c'è un tetto soltanto sulle spese di rimozione, però c'è da dire un'altra cosa, che questi 15 euro di spese burocratiche, se noi facessimo le multe in base al reddito, addirittura in base alla vettura che uno sta guidando, io temo che aumenterebbero ancora, perché dovremmo gravare gli uffici, che siano pubblici o privati, di una serie, di una mole di accertamenti tale da alzare sicuramente questi costi. E poi comunque, come abbiamo già detto, la questione del reddito, il parametro del reddito è inaffidabile di per sé, ma anche l'auto che si sta guidando è, se vogliamo, ancora di più inaffidabile, per cui onestamente... Perché? Spiega questo concetto, perché piace molto quest'idea della multa in base all'auto, non tanto in base all'auto però, e ci dice ancora qualcuno che non si firma, quindi non so dirvi il nome, ma dice non in base all'auto, in base alla potenza. È sbagliato, è sbagliatissimo, perché ci può essere un'auto da 300 cavalli, che è una cifra stratosferica, che è un modello super lusso attuale, quindi una cosa pagata 100.000 euro, e potrebbero essere invece 300 cavalli di un'auto che non ha mai incontrato grande successo, magari vecchia di 10 anni, che è in mano soltanto a un appassionato squattrinato cassa integrato, e allora sicuramente la capacità contributiva non è uguale, assolutamente no. C'è qualcuno poi del superbollo che plaude alla proposta, perché dice almeno gli imprenditori con la Ferrari pagherebbero il doppio dei dipendenti con la Panda. Grazie a Marco, ma non è così, perché pagano molto di più del doppio dove è applicato questo meccanismo. Poi ci interessa sapere anche se funziona come deterrente alla violazione. Prima diamo la parola ancora una volta agli ascoltatori e ci trasferiremo tra poco in Svizzera. Per voi 800 24 00 24. Buongiorno Claudio, lei in onda. Buongiorno. Sì, da dove chiama? Da Perugia. Dica. Niente, io volevo fare una semplice considerazione. Sicuramente in linea teorica è giusto far pagare ognuno in base alla propria capacità contributiva. Con il nostro sistema credo che si aggiungerebbe problema, nel senso che per poter attuare questa cosa servirebbe un sistema che con certezza accerti il reddito. Oggi come oggi non è così, quindi noi abbiamo... Allora le faccio un'altra domanda, Claudio, perché questo è stato detto già. Se ci fosse la possibilità, diciamo così, di avere la certezza del reddito dei contribuenti anche in Italia, lei sarebbe d'accordo al principio? Sì. Quindi sì, ben venga, però sì, c'è un problema di base in Italia. C'è un problema che oggi come oggi noi abbiamo, che arriva la mamma o il papà con il Mercedes a accompagnare il bambino all'asilo e non paga la retta e la pago io che ci vado con l'appunto. Grazie a Claudio. Alessio, buongiorno. Pronto? Alessio è stato colto da timidezza da messa in onda. Alessio, pronto? Sono qua. Non la sentivamo. Non la sentivamo. Qua dove innanzitutto? Da che città chiama? E io un bel paesino nella Val di Susa, anzi esattamente Val Sangone, in provincia di Torino. Bene, bene. Si chiama Coazze. E lì come funziona con le multe? Allora, con le multe, purtroppo, una cosa recentissima, viene indicato sul verbale l'importo da pagare con lo sconto del 30% inequivocabilmente, cioè non è che devo detrarmi. Cioè, lei non deve calcolarlo da solo, ha una cifra intera da pagare passati, esatto, 5 giorni, oppure entro i 5 giorni questa cifra che è esplicitata. Esatto, sono esplicitate entrambe, quindi non devo sulla multa che costa meno, diciamo, fare lo sconto del 30% perché è spiegato in maniera molto chiara. Un esempio da imitare, Maurizio? Non lo so, nel senso che su tutti i verbali deve esserci scritto anche l'importo scontato. Il problema è che i verbali sono diventati un tale guazzabuglio, anche qui per un sovrapporsi, per uno stratificarsi di leggi, che non ci si capisce più molto. Onestamente poi c'è anche da dire che non c'è un modello unico di verbale, ogni comune ha il proprio e io che per lavoro ne vedo tanti fatico a orientarmi, quindi oggettivamente in mezzo a una marea di cifre il cittadino può essere disorientato come lo è il professionista quindi io ritengo che il primo passo sia proprio quello di imporre un modulo unico in tutta Italia. Perché anche questo non c'è, segnaliamolo, infatti ci scrive Paola. Perché, come si può calcolare lo sconto del 30%? Dobbiamo toglierlo noi dall'importo indicato sul verbale? In quelle che ho visto io a Milano, sì, ma ho dovuto sempre calcolarlo e poi pagare. No, non era indicato assolutamente. C'è stato un problema di regime transitorio, nel senso che le prime sanzioni, quelle di un anno fa, sono partite senza avere questo importo scontato. Poi ovviamente software sono stati aggiornati e ora possiamo dire che l'importo scontato viene messo da tutti. Il problema, ripeto, è che non è messo allo stesso punto. Oltretutto ci sono dei comuni che fanno anche dei distinguo, nel senso che se la prima raccomandata ti viene recapitata paghi una certa cifra, se invece hai bisogno anche che ti recapiti una seconda raccomandata la cifra viene ulteriormente aumentata. Quindi alla fine non ci si capisce più nulla. Sarebbe il caso di mettersi tutti quanti al tavolino e fare un modulo chiaro e uguale per tutti. Andiamo in Svizzera, Lino Terlizzi, buongiorno. Buongiorno. Vi abbiamo citato in continuazione, Lino Terlizzi è il vice direttore del Corriere del Ticino e collaboratore anche del Sole 24 Ore, vi abbiamo citato come esempio di semplicità, semplificazione e forse anche equità, perché piace quest'idea della multa in base al reddito. E tra poco ce la racconterai nel dettaglio, torniamo in diretta tra pochissimo, intanto il numero di telefono 800 24 00 24. 34 minuti dopo le 9, ancora un saluto da Irene Zerbini, se siete al volante. Attenzione, stiamo parlando di multe, perché al di là che piaccia o meno questa idea della Svizzera di applicare la multa in base a quanto uno guadagna quell'anno, e dobbiamo capire se coglie nel segno, cioè fa da deterrente e cosa può scoraggiare degli atteggiamenti aggressivi al volante, dall'eccesso di velocità a atteggiamenti di violazione delle regole che poi compromettono un po' tutto il vivere civile. Tra poco ne parleremo anche col vice commissario responsabile comunicazione della Polizia Municipale di Verona, una città molto significativa, Michele Nespoli, che ringrazio per il suo tempo. Prima però abbiamo varcato il confine ormai, quindi stiamo lì in Svizzera, dove c'è Lino Terlizzi, vice direttore del Corriere del Ticino, che ce la racconta un po' dal suo punto di vista. Lino, dici, funziona? Com'è questa cosa? Sì, diciamo che il deterrente in Svizzera è un po' formato non solo dalla multa in relazione al reddito, ma dalla severità complessiva, perché bisogna precisare che la legge svizzera in effetti consente la multa in base al reddito e viene, in effetti ci sono casi di questo tipo, però questa disposizione è lasciata ai cantoni. In Svizzera ci sono 26 cantoni, quindi non tutti i cantoni la applicano, una serie di cantoni sì. Uno dei cantoni che la applica, per esempio, conosciuto in Italia perché è confinante, poi è luogo anche di vacanza per magari anche per i turisti italiani. Puoi nominarlo, non è una parola. No, ci sto arrivando, il Canton Grigioni, sono molte località turistiche nel Canton Grigioni, quello per intenderci di St. Moritz, di Davos, eccetera. Quindi, ecco, uno di questi è il Canton Grigioni, altri non lo fanno, però diciamo le cose da dire principali secondo me sono due, appunto. Tutte le multe un po' sono severe in Svizzera, anche quelle che non sono in rapporto al reddito, e questo è chiaro che è un deterrente abbastanza forte. Poi, se si aggiunge in alcuni cantoni appunto anche il parametro del reddito, è chiaro che possono diventare ancora più severe, quindi il deterrente aumenta indubbiamente. È chiaro che ci vuole anche un apparato amministrativo, diciamo così, a livello dei vari cantoni, che funziona bene, funziona rapidamente, perché se non c'è questo è chiaro che un po' tutto il deterrente non funziona. È consigliabile certamente in Svizzera non contravvenire, perché le multe sono effettivamente di un certo peso. Lino, chiaramente in Svizzera c'è la possibilità per la gente che si collega con il sistema operativo, chiamiamolo così, adesso non so come si chiami in Svizzera, di avere immediatamente tutte le informazioni anche relative all'individuo o al soggetto fermato, così che quando si calcola la multa non c'è questo problema sollevato da tutti gli italiani sull'incertezza del fattore reddito. Sì, chiaro che diciamo che il sistema sostanzialmente, per fortuna o per sfortuna, dipende dai punti di vista, funziona. Quindi è chiaro. Quindi le amministrazioni comunicano tra loro, cioè l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione immediatamente i dati sensibili anche di un'amministrazione di cantone che addetta alla sicurezza sulla strada, cioè c'è questa comunicazione via internet che invece qua purtroppo è ancora utopica. Direi che funziona, posso anche dire personalmente, l'ho sperimentato, non ho avuto grandi multe fortunatamente, però anni fa mi è capitato di avere una multa di qualche centinaio di franchi nel canton Friburgo, e l'ho pagata naturalmente per eccesso di velocità in autostrada, e devo dire che poi mi è arrivata anche una comunicazione dal canton Ticino, dove io risiedo, che mi ha detto: abbiamo visto, ecco, la invitiamo a non commettere altre infrazioni. Quindi vuol dire che la comunicazione funziona. Anche una lettera di sollecito a riflettere, diciamo. Esattamente. Beh, è interessante anche questo come deterrente. Alessandro, buongiorno. Pronto? Alessandro, sì. Buongiorno. Sì, pronto. Buongiorno. 800240024, state continuando a raccontarci le vostre esperienze e a chiederci delle delucidazioni. A lei cosa è successo? Ma a me è successo che dopo 3 mesi che era stata messa a Milano una postazione fissa Pultanova in via Palmanova, di cui io non mi sono accorto perché confluisco in quella via in una parte in cui non si vede il cartello, ma si vedono i cartelli vecchi, quindi non il cartello che dice c'è una nuova postazione fissa. E infatti credo stiamo facendo le multe al giorno su questa cosa. Beh, insomma, dopo 3 mesi mi sono iniziato ad arrivare multe con una cadenza, diciamo, da 3-4 alla settimana. Quindi io mi chiedo, visto che lì c'è il limite di 70 all'ora, e io ho fatto un'infrazione da 80-85 all'ora, quindi non sono un delinquente, sono solo uno che magari ha avuto un po' il piede pesante su una via dove in realtà sembra una tangenziale per chi la conosce, per cui 70 all'ora è veramente poco e non capisco a che cosa serva, non serve sicuramente alla comunità delle persone, però diciamo la cosa incredibile è che queste multe continueranno ad arrivarmi, me ne arriveranno decine, perché io non mi sono accorto per mesi di questa cosa. Allora io mi chiedo, io che posso permettermi un avvocato, spendendo dei soldi ho fatto ricorso, ma i pendolari a 1000 euro al mese che usano la macchina per lavoro e che si vedono dopo 3 mesi nelle mie condizioni arrivare centinaia di euro di multa, magari anche dei punti della patente, cosa fanno? Cioè, io grazie, dico... grazie Alessandro, siamo d'accordo sulle differenze di possibilità tra chi può fare ricorsi, anche perdere giornate di lavoro per fare le file negli uffici. Sono un po' meno d'accordo sulla questione 70 all'ora, 80 all'ora, il 70 all'ora non serve, tanto sembra una tangenziale, sono decisamente meno d'accordo su questo. Comunque ha segnalato Alessandro un problema vero, Maurizio. Sì, intanto sul 70 all'ora c'è da dire che purtroppo c'è anche un problema di codice della strada. Quella è una strada urbana, il codice della strada autorizza al massimo i 70 all'ora, quali che siano le condizioni. Il problema vero è che queste multe, questa raffica di multe che, come ci ha detto l'ascoltatore, sono partite da Milano e tra l'altro stanno diminuendo perché la gente finalmente ha ricevuto la prima raffica e se ne è accorta. Gli accertamenti ad aprile, già a fine aprile, erano diminuiti del 60%, quindi stiamo parlando del periodo marzo, tutto aprile, già a fine aprile erano diminuiti. Dunque lì sta succedendo che questa è proprio una valanga e allora i vigili non ci stanno dietro con i tempi di notifica, che tra l'altro nel 2010 sono stati abbreviati da 150 a 90 giorni, e allora l'escamotage, il trucchetto che abbiamo segnalato noi sul Sole 24 Ore di ieri e che a nostro giudizio lascia ampi margini per un ricorso, ossia loro fanno partire il conteggio nei 90 giorni dal momento in cui il vigile ha visto la fotografia dell'infrazione nel suo ufficio. Quindi non dal giorno della violazione, esatto. Perché invece c'è la tendenza ovviamente da parte dell'automobilista a pensare il verbale deve arrivare entro 90 giorni dall'infrazione. Dall'infrazione, e onestamente io penso che anche un giudice di pace, la Cassazione e la Corte Costituzionale, che tra l'altro 20 anni fa si è pronunciata su un problema analogo in modo assolutamente favorevole all'automobilista, pensiamo che appunto la magistratura la penserà esattamente come noi, quindi questa invenzione del considerare la data di accertamento non quella dell'infrazione ma quella in cui il vigile visiona la foto sulla sua scrivania, questo andrà sicuramente rivisto, insomma. E visto che abbiamo un vigile con noi, anzi il vice commissario della Polizia Municipale di Verona, Michele Nespoli, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ha sentito anche di questa possibilità, una valanga di ricorsi su questa abitudine, poi non so, le chiedo, si fa anche a Verona, di calcolare i 90 giorni di emissione del verbale dal momento in cui il verbale arriva sul vostro tavolo e non dall'infrazione? Ecco, a Verona siamo molto veloci da questo punto di vista e questo problema probabilmente non lo abbiamo. C'è da dire che il codice della strada, appunto ricordava Caprino, parla di accertamento, e se avesse il legislatore inteso violazione, momento della violazione, avrebbe probabilmente inserito momento della violazione. Ecco, è molto preciso il codice quando tratta i vari aspetti. Accertamento è un termine più generale che non ha a che fare con il momento, la data della violazione, ma con l'accertamento per esempio del proprietario del veicolo, perciò del responsabile. Noi a Verona, torno, siamo più veloci, noi notifichiamo in 7 giorni le violazioni autovelox che entrano in modo digitale da subito, e tutte le altre entro 30 giorni dalla data della violazione. Siamo molto veloci. E ecco, perché questo... secondo lei voi potete permettervi questi tempi di 7 giorni? Negli anni siamo riusciti a mettere in piedi un sistema di verbalizzazione, ma di gestione del flusso di verbali dal primo momento della violazione, perciò dall'agente su strada fino all'ultimo momento di nostra competenza, che è la trasmissione a chi poi stamperà il verbale e notificherà successivamente, ripeto, interamente digitale. L'abbiamo fatto per passi e siamo arrivati ad ottimizzare i tempi. Quando la riduzione dai 150 ai 90 giorni è entrata in vigore, noi eravamo già su buone performance da questo punto di vista, di conseguenza non ha fatto altro che farci piacere, e oggi siamo, le ripeto, sui 30 giorni Vabbè, terrete dei corsi anche alle altre amministrazioni, allora evidentemente, perché sarebbe bello avere un'Italia omogenea, almeno sotto qualche aspetto. Senta, lei che è un vigile, quando passa con rosso una Panda o una Ferrari, lei che è non solo un vigile, ma insomma è vicecommissario, ne ha viste tante sulle strade, passa una Ferrari con rosso, passa una Panda, per lei c'è una differenza? Cioè, sarebbe favorevole a una multa diversa in base al reddito? Guardi, noi siamo favorevoli ad ogni sistema che semplifichi le procedure e renda chiare le norme, perché le norme chiare sono più facili da rispettare per tutti e le, diciamo, procedure semplici sono più facili da applicare per la pubblica amministrazione. Credo, da un punto di vista generale, che questo collegamento ulteriore tra la banca dati della polizia, che poi ci sono 8.000 comuni, 8.000 polizie più quelle dello Stato, insomma ci sono tante polizie che lavorano con i sistemi, queste, le loro banche dati e la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, ad esempio, sì, probabilmente complicherebbe un po' la situazione. Cioè, le immagini, dover far passare una, diciamo, un flusso di dati, una violazione che deve essere ancora determinata come importo, all'interno di un'altra banca dati esterna per poi tornare indietro, cioè, probabilmente sarebbe un po' farraginoso. In termini generali, si potrebbero per esempio attribuire delle fasce ai contribuenti, fascia A, B, C, D, E, F, e dal momento in cui ti viene combinata una multa, per esempio, sai già che tu avrai quell'algoritmo per la fascia F o B. Stavo o dicendo D. Questo, esattamente, delle fasce probabilmente potrebbe essere deterrente. Le dico, da un punto di vista professionale, personale, umano, a nessun vigile, diciamo, crea una certa maggior soddisfazione multare una Ferrari anziché una Panda che passa con il rosso, nel senso che il vigile non fa altro che applicare la norma che c'è. No, no, al di là dell'applicazione, volevo capire se lei lo riteneva come dire, valido come deterrente. Se... Ecco, potrebbe essere un deterrente, ricordiamoci, l'avete un ascoltatore prima, che siamo in Italia e probabilmente ci servono delle difficoltà da un punto di vista di reddito, nel senso che molto spesso... Certificare il reddito vero e non presunto. Esattamente. 9.48, c'è Giorgio che aspetta, stiamo parlando di multe e stiamo parlando di problematiche introdotte da diciture burocratiche come pagamento in misura ridotta, che non è quello scontato, attenzione, e poi ci torneremo. Giorgio, buongiorno. Buongiorno. Da dove chiama Giorgio? Chiamo da Sabaudia, pur essendo di Pomezia, in provincia di Roma. Benissimo, è autorizzato. Dica. Il problema è semplicissimo. Io ho avuto una multa nel comune di Pomezia di 78 euro per sosta sulle strisce, ho sbagliato, pago, ok. Io ho pagato questa multa entro i 60 giorni, dopodiché mi è arrivata una notifica di un'integrazione di 92 euro. Cosa a cui non ho dato peso perché pensavo, vabbè, non hanno ricevuto il pagamento, probabilmente sarà quello. E invece dopo un po' di tempo mi è arrivato ancora 160 euro. Ma lo possono fare questo lavoro? Grazie a Giorgio. Maurizio? Probabilmente lo stesso caso che dicevamo prima, cioè è stata notificata, il verbale è stato notificato con una seconda raccomandata, quindi l'ascoltatore non ha pagato le spese di questa seconda raccomandata. Come spiegavo prima, la Cassazione ha detto che il Comune può recuperare soltanto le spese raccomandate, non può riaddebitare la sanzione come se la sanzione stessa non fosse stata pagata. Ma capisci che poi mettersi a fare ricorso, a ricordare al comune che la Cassazione ha sancito, che comporta non solo un esborso di denari ma anche e soprattutto di tempo e di problematiche, perché non ci si può rivolgere semplicemente a uno sportello, discutere e decidere in loco, visto che c'è una sentenza della Cassazione che probabilmente hanno tra gli atti, basta fotocopiarla e tenerla in una cartellina, perché no? Purtroppo giuridicamente la sentenza della Cassazione non è vincolante, anzi tra l'altro magari fra un anno la Cassazione cambia idea, quindi loro hanno paura che poi la Corte dei Conti si rivalga su di loro per il mancato incasso, cioè in questo caso per non aver fregato il cittadino, però purtroppo il sistema è questo. Alcuni dei vostri sms: ho pagato entro 5 giorni l'importo indicato ritenendo che fosse quello già scontato del 30% e non avevo capito che questo importo era da scontare. Ci racconta un altro dei problemi, come recuperare quindi la differenza, e questa ascoltatrice. C'è poi qualcuno che ci scrive: sono ex italiano, vivo in Svizzera, ex italiano, e osservo rigorosamente le regole, perché qui questo è un paese in cui è meglio farlo, in Italia invece colleziono multe e me ne frego. Ambivalente nei comportamenti questo ascoltatore. Lino Terlizzi, tu che sei appunto il vice direttore del Corriere del Ticino, la certezza di essere, al di là dell'applicazione in base al reddito, ma la certezza che una violazione venga poi punita, genera anche un cambio nei comportamenti, come ci segnala l'ascoltatore? Sì, direi proprio di sì, perché effettivamente è vero, io consiglio sempre a chi viene dagli altri paesi, dall'Italia anche, effettivamente di non puntare troppo sul fatto di non essere presi, perché poi alla fine, specialmente se si viaggia spesso, si viene presi, è una certezza. Questo cambia i comportamenti, in effetti basta vedere anche che la gran parte, a parte dei casi talvolta eclatanti, di multe appunto anche eclatanti, però la gran parte delle persone che viaggiano poi sulle autostrade dove queste sanzioni sono dure e certe, come accade quasi sempre in Svizzera, poi osservano i limiti di velocità, insomma. Non quindi il portafoglio vale più dell'educazione civica? Ma probabilmente tutte e due, ecco, diciamo, ci vogliono tutte e due, ci vuole il discorso del portafoglio e ci vuole anche il discorso dell'educazione civica, perché anche quello ci vuole. Ecco, se si riesce a fare una miscela di queste due cose, ecco, funziona. Tu hai nominato delle multe eclatanti, cosa è successo? Sono finite in prima pagina anche del tuo giornale? Ma insomma, non sempre in prima pagina, però ci sono dei casi di per esempio, arrivano addirittura a centinaia di migliaia di franchi, ecco, perché si cumula la pesantezza dell'infrazione, ecco perché, non so, sono state prese ad esempio delle macchine molto veloci negli anni scorsi in alcuni cantoni che andavano quasi a 300 all'ora. È chiaro che lì già, siccome l'infrazione è grave, la multa sale molto. Poi se si tratta di un cantone che l'applica appunto anche collegandola al reddito, allora si arriva a queste multe. Ogni tanto succede, sono casi non così diffusi, ma ci sono, c'è stato anche negli anni scorsi il caso di una Ferrari presa a 290 km orari, dove bisognava andare a 100 o a 120, e il proprietario di questa Ferrari aveva un reddito elevato, era tra l'altro uno straniero residente in Svizzera, credo anche un diplomatico, quindi ecco, questo ha fatto molto discutere. Grazie a Lino Terlizzi. Maurizio Caprino suggeriva, il vice direttore del Corriere del Ticino, portafoglio ed educazione civica insieme. Manca una cosa che in Svizzera c'è, in Italia appunto non c'è, e cioè il fatto che almeno ogni tanto si possa essere fermati subito, perché oggi chi è ricco in autostrada, noi abbiamo il tutor che vede tutto a livello di velocità, non vede tante altre cose, ma la velocità la vede, ma c'è gente che tranquillamente se ne infischia perché i soldi per pagare e sa che non sarà mai identificata. Se invece ogni tanto venisse fermata subito, quindi identificata, e quindi venisse ritirata immediatamente la patente e poi sospesa per 3 o 6 mesi, la musica cambierebbe di gran lunga. Però purtroppo in Italia il sistema è fatto così, non abbiamo abbastanza agenti, abbiamo anche strade più caotiche di quelle svizzere, quindi restiamo col nostro sistema. E anche quindi se potesse funzionare il discorso della multa in base al reddito, come meccanismo, non funzionerebbe invece come deterrente. In Austria o paghi 70 euro o hai 24 ore di prigione, potrebbe essere un'idea, ce lo chiede Grazia da Pordenone. E Luigi da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io volevo sapere una cosa, ma è connessa con l'altra. I 5 giorni da quando partono? Dal momento in cui la fanno la multa o dal giorno dopo? Dal giorno dopo la notifica, quindi da quando al giorno dopo la ricezione del verbale. Dal giorno dopo la notifica? Sì. E sono compresi i giorni festivi o sono esclusi? Ecco, appunto, i giorni festivi sono compresi? Sì, nel conteggio si contano, sì. Sì. Era questa la sua domanda, Luigi? Sì, sì. Grazie. Sì, appunto, da quando partiva e se i festivi sono... Con la postilla che in caso di divieto di sosta non c'è una vera e propria notifica del verbale, ma basta avere in mano il cosiddetto preavviso, quello, il foglietto che si trova sul parabrezza, già quello vale e fa partire il conteggio dei 5 giorni. Se invece non si paga dopo questo preavviso, si preferisce attendere il verbale, i 5 giorni ripartono dopo la notifica fotocopia di questo verbale di divieto di sosta. Diego, buongiorno, velocissimo, dica. Pronto? Niente, pronto? Sì, Diego, dica. Niente, volevo dire che io vivo nella zona di Milano e ho purtroppo preso una multa sia a Milano e sia a Bresso, che è un comune vicino, però all'interno della multa c'erano già i bollettini postali che facevano il conteggio sia della detrazione del 30%, sia delle spese di notifica, sia se pagavi entro i 5 giorni che entro i 60 giorni, per cui ci sono già due bollettini postali. Quindi lei vuole segnalare un caso di funzionamento, insomma, della nostra amministrazione. Però la gente sbaglia lo stesso, a volte confonde i bollettini e lì succedono guai. Ma come, Maurizio, come vedresti tu l'introduzione di questo principio svizzero-danese-finlandese della multa in base al reddito, se in Italia, come molti si augurano, perché piace come idea, si potesse accertare il reddito? E anche lo stimolo dell'ascoltatrice che dice la prigione, perché anche in Svizzera si può. Allora, il sistema svizzero-danese-finlandese, come dicevo prima, non può funzionare, cioè se anche... perché il reddito, tutti sappiamo il reddito di tutti, ma non funzionerebbe, perché ci vuole anche il deterrente dell'essere fermati subito, che troppo spesso in Italia non scatta. Quanto al discorso della prigione, se non si paga subito, ma in un paese che fa un decreto svuota carceri dopo l'altro perché ha il sistema carcerario che è al collasso, ovviamente non è proponibile. Non lo trovi auspicabile, è solo un aggravio di procedure burocratiche, e avremo più agenti in ufficio e molti di meno in strada, effetto paradossale. Forse lavori socialmente utili che fanno riflettere, perché anche le multe e il comportamento sulle strade sono comportamenti che fanno da specchio all'educazione civica di un paese. Grazie a Maurizio Caprino, grazie a Terlizzi, a Michele Nespoli e a Gianmarco Ferronato in regia, a Barbara Bianchi che ha collaborato come autrice a questo Spunti di Vista insieme a Luca Cremonese e Alessandro Casali. Da Irene Zerbini, domani siamo in diretta, ci ritroviamo alle 8:15. Buona giornata. Spunti di Vista. I mille aspetti dell'attualità.